Campania non è buona. Perché no? È perché non ci sono campane. Per esempio, prima, quando io era piccolo, cioè era creatura, non c'erano tante pecore, ma mancano pure che ieri. Sono brave. C'erano 25-30 mila pecore. E dice quante? 25-30 mila pecore erano qua. E poi hanno rimasto anche i cristiani. Da chi se ne aiuta al nord, che è in Germania, che è andata a parte, che è andata a parte. Comunque il paese, i figli noi siamo, siamo contenti che ci sono queste, sono romee. Io sono la nipote. E c'è la nipote. Hanno venuto per esempio. Acquisita, acquisita. Hanno venuto i neri per esempio. Per noi è tale quale, non è che io, qualcuno dice... ma che quando è venuto qui? Ma che non ti danno fastidio, che puoi trovare? È venuto se ti riene fastidio, o no? Eh beh, sì. Tu figli, no, vabbè, ma dite cose che sono belle così. Hai capito? Noi ripuliamo bene. Puliamo bene. Ciao. La stessa si è appigliata a nipote. Vabbè, raccomandata. Allora. Però comunque è bravissima. La società. Quello è la capo che non vuole fungire. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Buona serata allora. Grazie. Radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Lo sproprio stati siamo nella fase più delicata. Perché il progetto finisce nel giugno 2020 e tutte le famiglie che abbiamo in accoglienza andranno in autonomia nei prossimi mesi. Quindi questa fase delicata che cosa prevede? Un accompagnamento verso l'inserimento lavorativo, ovvero contratti reali di lavoro che poi consentono alle famiglie di poter permettersi un affitto, di pagare le bollette e fare a meno di quella che è la nostra assistenza. Però rispetto invece a quello che si sa ma in realtà non si sa, di quello che lo SPRAR poi a livello di erogazioni materiali fornisce, si sanno tante fesserie, in realtà loro sono avvantaggiati perché hanno la disponibilità di un alloggio gratuito e quindi non hanno spese, ma poi rispetto ai soldi, che alla moneta che effettivamente hanno, sono pochi. I nostri beneficiari hanno 5 euro di vitto al giorno, più un pocket money che di 2,50 euro. Quando iniziano ad avere un contratto di lavoro o fanno un tirocinio formativo che è previsto dai nostri progetti, queste erogazioni materiali, cioè quando loro raggiungono un po' di autonomia, noi sottraiamo e bilanciamo l'assistenza, cioè cercano, sono strutturate in modo da lasciarli poi da soli, sia sul mercato del lavoro che nel contesto territoriale. Ci avviciniamo, Ruba e Feraz, alle nostre foto e iniziamo il racconto. Io sono Nadia, sono dei bambini, io sono abituata a Ottaci. Scusa, ma sulla prima foto sono questo vicino al paese mio, sono... Nome Urica, vicino Marrakesh, mi sono paesi piccoli, sono difficili per stare qua, abito qua, non c'è la luce prima, non c'è acqua, non c'è la strada bene, non c'è anche l'ospedale, dopo tutto persone malate qua sono, mi serve 3 ore della strada per andare all'ospedale. Tante donne sono morte per non c'è ambulanza per venire. Sì. E i bambini non c'è scuola, sono per andare i bambini qua a scuola sono, mi serve 2 ore per piede. Io non ho studiato mai, sono studiata qua in Italia. Io anche questa sono una cosa molto fortuna, sono studiata in Italia. Anche grazie maestra Emiliana, sono molto brava, adesso io parlo bene, prima non lo so, anche scrivi il nome mio, cognome, grazie Emiliana. E ora andrai a scuola tu? Sì. E anche grazie a Ottazio, sono sempre lui aiuta. Anche il sindaco di prima e il sindaco di adesso, ma io non ho dimenticato quella persona, aiutami. E questa... Io sono veramente... sono mancata tanto al mio villaggio, io non ho stato tanto, mi, questa sempre al cuore mio. Mi, c'è mia mamma, mia padre, io ho... noi sono tutti dieci fratelli, sono morto due, per non c'è l'ospedale, sono mio fratello morto. E sono mancata quattro figlie e quattro maschi. E adesso c'è solo mia mamma e mio padre lì. Mi veramente saluta anche il cuore lì. Mi sono mancata. E io dopo sono sposata, sono andata a Libia. Sono stata in Libia 5 anni. Questa sono una foto di scusami, di un giorno di venerdì, cioè persone vanno a moschia per preghiere. Mi dispiace, sono venuta a un problema, sono tanto bambini morti, tanto donne, e veramente sono giornata molto dura per persone, sono abitati lì. Anche adesso ancora c'è questo problema, mi dispiace per bambini tanto e donne. Loro non fanno niente per c'è guerra, mi dispiace. Io sono abituata da 2012 sono andata in Libia e 2016 sono morto io, mio figlio, a guerra, perché sono scappata da Libia. Per persone sempre chi di Nadia, perché è venuta in Italia. Sono questa che c'è su con me. E sono venuta con la barca, non lasciata Libia per questo problema. E questa la foto, sono il giorno che è arrivata a Salerno. Ancora qua sono tutte persone, vi dire a Italia come sono una zona, sono, non c'è lingua, non conosci niente, non conosci dove vai. Io prima sono presa mia figlia, sono due. Sono veramente qua, sono io tranquilla, mi anche paura per non conosci nessuno, non conosci lingua, non conosci niente. Non c'è anche da me soldi per... sono una persona, sono salita dal mare, da poco morto, mezzo al mare. Mi veramente sono fortuna, sono arrivata in Italia. E io lo voglio dire solo grazie a tutte le persone che sono aiutate a me, anche per mezzo alla strada, persone dire Nadia, buongiorno, questa sono molto per me. Anche lo vuoi dire al sindaco, grazie. Sono così, lo vuoi dire. Adesso io dopo dormi, veramente dormi tranquilla, non paura per i miei figli, anche fatto mio figlio l'altro, sono fatto Ilias qua in Italia. Mi devi dire grazie a tutte le persone, sono aiutando veramente, grazie a tutte le persone abitando a Ottazio, anche io dopo persone sono salutano, mi vi fanno braccio, io questo sono molto per me, grazie. Che radio è innanzitutto? Radio Antenna Migrante si chiama. Bellissimo. Radio Antenna Migrante, quindi andiamo in giro ormai da diversi mesi per tutta la campagna. Che tipo di domande vuoi fare? Che... no, solo se avete mangiato qua stasera. Sì, veramente non ho trovato niente, sono arrivato tardi. Vabbè, però là. Però loro hanno mangiato qua. Com'è andata? Tutto bene, da ripetere. Ma voi siete qua di Ottati? Sì, sì. Mia moglie, io sono sposato napoletano, ho sposato una ragazza di Ottati. Vedi che facciamo integrazione, pure gente di Napoli, ecco io. Allora tutti bravo. Complimenti, qui ci sono donne bellissime. Stiamo bene, siamo tutti colorati. L'arcobaleno è bello per questo. Felicemente contenti siamo. Sì. semplicemente contenti. Come stava andando? Semplicemente come stava andando? No, per noi hai toccato proprio le persone giuste. Per noi è positivo. Poi la nostra famiglia, devi sapere che stiamo ospitando un ragazzo del Mali come ospite. Ma non qua a Ottate? No, qua a Ottate, qui. Quindi noi siamo proprio a cercare. Poi io insegno, quindi i bambini... No, niente progetto. Perché lui era uscito fuori dal progetto, ci ha chiamato, perché noi avevamo fatto richiesta tempo fa, e ci hanno chiamato se eravamo ancora d'accordo, abbiamo accettato. Sembra che c'è questa unione buona, perché lui è un buon... E noi pure... Se, per adesso va bene così, poi forse... non durerà, dovrebbe durare un anno. Finiscono i matrimoni. Quindi... Appunto, quindi noi siamo partiti bene, abbiamo fatto sempre questo, insomma, una buona integrazione, perché secondo me è solo arricchimento. Vabbè, cultura. Dopo le curve per arrivare a Ottati si respira una bella... No, io credo, ma infatti, insomma, se hai sentito, allora, i rifugiati, loro la cosa che più amano di più è questa integrazione e questa ospitalità, che Ottate, diciamolo tu, può avere mille difetti, però... Per esempio il signore là diceva che ormai è diventato troppo piccolo Ottate, bisognerebbe allargarlo un po'. Ma dove l'hai presa sta coroncina? Vedi, quest'anno noi abbiamo fatto, è stato l'anno pastorale, non so, insomma, veniva in visita il vescovo in tutte le comunità. Da noi è venuto e ma ha fatto proprio, è rimasto contentissimo perché ha trovato questa realtà talmente arricchita da questi bambini. Quando lui chiese a una di loro: "Ma di dove sei?", lei non disse marocchina, Ottate. Che significa che sei integrato? Ha detto tutto in una sì, risposta. È tutto in una sola risposta. Il vescovo infatti nella lettera pastorale l'ha scritto per questa, proprio perché si nota, si tocca, è tangibile quando. Quindi io credo che poi c'è pure la gente che è contraria, per l'amor di Dio. Come magari anche noi quando abbiamo affittato, perché noi abbiamo affittato la casa a una famiglia. E sono stata la prima, per paura che gli ottatesi non affittassero, quindi sono stata la prima a dire di. Per dirti. Apripista, sì, per... l'apripista. Ma questo è stato quasi una scommessa, perché prima io sapevo, cioè all'inizio erano tutti sfiduciosi, sai, quando erano scettici. Adesso invece guarda, con chiunque parli, sono poche le persone, cioè, che. Sono perché nella anche loro sono. Anche loro sono delle. Io adesso li frequento come scuola, da modello, che manco i genitori dei nostri bambini rispettano le regole come le rispettano loro. Ma ce ne sono loro. Tanti proprio di bambini. Sì, noi l'anno scorso ne avevamo 4, 3 di Ottate e 1 di Sant'Angelo. Quest'anno ne avremo di più perché c'è pure l'altra bambina, quindi poi i siriani sono arrivati durante l'anno scolastico, si sono inserite subito, insomma, qualsiasi... E poi loro non si tirano indietro, anche se non sono cattolici, però non hanno mai detto, noi rispettiamo la loro, non fanno religione, però anche il Natale, noi non abbiamo fatto proprio niente, come dicono per televisione, perché molte volte la scusa dei grandi, quando non vogliono, prendono la scusa, no, loro hanno partecipato, hanno portato le loro pietanze, cioè è stata proprio un'integrazione, contenti, tutto quello che abbiamo fatto più un Natale là, cioè non proprio molto... Però è stato nominato tutti i personaggi. Però se in questo modo uno è riuscito a stare assieme a tutti quanti. Abbiamo parlato di solidarietà, di pace, proprio di integrazione da parte, perché ci sono tante tematiche che non per forza tu devi parlare. Però è venuto fuori anche Madonna Gesù. Vedi, hai dato appunto, un bambino a una coppia appunto, di rifugiati, quindi il Natale è fondamentalmente. Per dirti più di questo, loro sono aperti, ma perché hanno trovato anche l'ambiente. Claudia, dove stiamo? Perché siamo venuti fino a Ottate? E soprattutto, perché stiamo ascoltando questa musica adesso? Il 27 di agosto. A rientro ferie. Con le luminarie di... Di Natale. Di Natale. Perché stiamo chiudendo l'agosto ottatese. Quando voloso agosto ottatese... con questa festa dello Sprar che chiude appunto una serie di eventi. Ecco perché ci sono le luminarie, perché hanno fatto baldoria finora, concerti, sagre, quello che si fa negli agosti cilentani. E Ottati è un po' diverso perché c'ha anche uno sprar e quindi sì, non è proprio quindi... come tutti gli altri paesi. Agosti Ottate si caratterizza per la chiusura con una festa multiculturale, perché poi grazie alle famiglie che ospita lo Spar di Ottati, infatti, riusciamo a essere molto festaioli. Sono 16 beneficiari, 4 famiglie, una famiglia siriana, una famiglia marocchina, una famiglia ghanese e una famiglia nigeriana, che sono in accoglienza diffusa nel centro storico. 3 famiglie sono ospiti dall'estate del 2017, quindi quasi 2 anni, e l'ultima famiglia, quella siriana, è qui da 9 mesi. Rocco Agostino, l'avvocato, che invece ha partecipato, esatto, che ha presentato insieme alla presentazione a Vanna D'Ambrosio. Prima di me volevo farti una parola a Vanna. Vanna, attivista, si è scocciata, è stata per tanti anni nel mondo dell'accoglienza, ora si è rotta le scatole, si è scocciata. È passata al lato oscuro della porta. Sì, adesso sì. E quindi è lei, ha scritto, è una delle autrici del libro Il sistema di accoglienza in Italia, che abbiamo presentato questo pomeriggio ad Ottati. C'eravate voi in rappresentanza, sì, sì, dei tanti autori del volume. Sì, che... autori che non solo, diciamo, solo persone, sì, fisiche come siamo io, Vanna, ma c'è per esempio l'ex OPG. C'è la SD Atletico Brigante, che è una squadra di calcio, quindi ci sono delle realtà, cioè non solo persone che hanno scritto, ma realtà che sono rappresentate nel libro. Quindi c'è per una quello... pagina Facebook pure sul volume, sì, che viene curata, adesso c'è la seconda edizione, il libro, esatto, è alla, sì, sua seconda edizione, quindi, esatto, è un risultato importante per... aggiornato al decreto legge sicurezza, quindi era necessario un aggiornamento normativo, quindi... speriamo quindi in una terza edizione, sì, che lo con qualche notizia, okay, migliore. Beh, speriamo così, speriamo in qualche notizia migliore per la prossima edizione. Speriamo di ritornare alla prima, semmai, che abrogano il decreto e quindi non c'è più bisogno del capitolo sul decreto legge sicurezza. Nel testo, Vanna, chi è che ha fatto da legante? Il professore Avallone è stato il nostro curatore. Abbiamo iniziato con degli incontri all'università, dove lui è il ricercatore. E niente, abbiamo iniziato a discutere sul fenomeno dell'immigrazione e da varie esperienze, vari punti di vista ci siamo incrociati in questo volume, che quindi interpreta da più lati questo fenomeno critico, perché si parla solo di questo ormai. E dalle nostre esperienze abbiamo cercato di interpretarlo diversamente rispetto alla norma, avvicinando loro più a noi e avvicinandoci sicuramente noi più a queste altre persone, riscoprendo tutto quello che c'è di umano, ossia non nascondendolo quello che c'è di umano, non riscoprendolo, e portando avanti la parte sana dell'immigrazione o della ricezione che ci auguriamo. Mi avete sconvolto la popolazione, abbiamo sconvolto, non so se avete visto tutte le movenze nigeriane e in prima fila una schiera di ultra ottantenni con la bava alla bocca. Che vogliono almeno ogni fine settimana. Un abbonamento. Un abbonamento allo Sprar. Ecco, la vita fortunatamente va avanti, va oltre documenti, carte, frontiere. Sì, perché le frontiere sono soltanto nella nostra testa, quindi esatto. Volta che ci togliamo via quelle... Perché adesso hanno iniziato, tutti, appunto, prima stanno ballando ancora adesso, stanno anche suonando i The Waves con... ospiti di diversi sprar della zona, con Big Danny al DJ, Tony Lyon al basso, quindi è una serata fantastica. L'incontro, ci devono far incontrare di più e far veramente cadere questi muri e queste, perché incontrandoci ci rendiamo conto che i miei desideri sono gli stessi dell'altra persona, ossia avere una vita tranquilla, una casa e una famiglia per sopravvivere. Abbiamo tutti in quanto umani gli stessi desideri. È la cosa che pensavo quando Nadia ha raccontato la sua storia di vita, la storia della sua famiglia, dove di fatto la richiesta è quella. E abbiamo le stesse emozioni, gli stessi sentimenti, le stesse preoccupazioni e ci uniscono gli stessi desideri. Ed è per questo che vengono qua, come io desidero, posso desiderare di andare in un altro paese per costruire un futuro diverso. Ci lega questo, la libertà e il movimento e il desiderio che abbiamo ancora di migliorare la situazione in cui ci troviamo. Incontrandoci forse si chiarisce che siamo troppo uguali e non così diversi, e quindi la forza che ci unisce è sempre maggiore di quello che ci può dividere. Poi i paesini come Ottati, soprattutto il fatto che arrivino, che la piazza sia strapiena di bambini, credo che sia un evento non così comune nella vita di questa comunità. Aree interne, Cilento, strade con le buche, ottimo cibo, poche persone. E va bene, io vi ringrazio. Rocco si è ostinato la mano tenendo i falafel per tutto il tempo nella sua mano. Ragazzi, voi avete una mozzicata in diretta. Come sono mozzicata dai, e moto dai. In diretta. Mamma raga, sono fantastici. Sono stati superlativi. Da Ottati è tutto e a posto, ok, per ora è tutto, ciao. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.